Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Io non so come rispondere al quesito. I don't know to respond to that. Dal 22 settembre al 1 ottobre 2023 al Dumbo e altri luoghi, tanti altri luoghi, quindi diffuso in città, il PH Museum Days 2023. È la terza edizione del Festival Internazionale di Fotografia, invita alla riflessione sul rapporto tra gli esseri umani e la tecnologia. Ospitando presso lo Spazio Bianco di Dumbo e altri luoghi nella città di Bologna, mostre, dibattiti, proiezioni, letture e una sezione dedicata anche all'editoria fotografica indipendente. Ho iniziato con una frase che è la risposta che gli assistenti virtuali, famosissimi come Apple e Siri, danno quando non riescono a trovare una soluzione alle nostre richieste. I don't know how to respond to that. È un'affermazione che dà spunto a diverse riflessioni, e l'obiettivo di questa edizione è appunto avviare tutto ciò sul rapporto tra gli esseri umani e le macchine. L'evoluzione o involuzione, secondo me, del linguaggio, linguaggio in senso lato, su alcune questioni anche ambientali che, nonostante la tecnologia, ancora non trovano una soluzione. Le diverse sedi del festival sono veramente molto importanti, i percorsi e la realtà che ci porta anche al cassero LGBT+, per quanto riguarda una serie di opere, Illusions ed altre sedi, come vi ho detto, che portano questa attenzione al tema. Anche una realtà di esposizione completamente libera, insomma, ne parleremo a breve grazie a Rachele Copparoni con Giuseppe Oliverio. Tra gli organizzatori, si apre venerdì 22, cioè domani, alle ore 11 presso lo Spazio Bianco di Dumbo. Sentiamo la conversazione tra Rachele e Giuseppe Oliverio. Giuseppe Oliverio, direttore di PH Museum Days 2023, Festival Internazionale di Fotografia. Ecco, quali sono gli obiettivi di questa nuova edizione 2023? Ma è portare sicuramente avanti il lavoro che abbiamo svolto in queste prime due edizioni, quindi di coinvolgere la città e al contempo di creare un quartier generale nello Spazio Bianco di Dumbo, dove approfondire tutte le tematiche del festival e dove godere del circuito principale di mostre, e cercando appunto di coinvolgere sia i bolognesi che i visitatori che vengono in città. E credo che quest'anno potrà essere molto utile l'installazione che abbiamo fatto nel cortile dell'Archiginnasio, che è appunto uno dei luoghi iconici della città, per appunto raccontare a tutti, anche chi magari ci segue meno, del fatto che in questi giorni ci sarà il festival. Quali saranno appunto i luoghi in cui poi il festival si svolgerà? Ce n'hai già citato qualcuno? Sì, lo Spazio Bianco è assolutamente la location da non perdere, perché è dove si possono vedere 9 delle 15 mostre, conoscere gli autori, ci sono le visite guidate, è sicuramente il punto di partenza. Poi abbiamo 3 installazioni in città, una al Cassero e Cavaticcio, tutte ovviamente visitabili gratuitamente, una sulle bacheche di Cip in via dell'Abbadia, che è una trasversale di via San Felice, e all'Archiginnasio nel cortile. E in più ci sono 3 mostre in altrettante gallerie. Consiglio di venire domani, mercoledì, all'opening di Felicity Hammond da Galleria Più in via del Porto, dalle 18 alle 21, che è aperto a tutti, ci sarà l'artista, sarà un'ottima opportunità per entrare in clima festival. E le altre due mostre sono al PH Museum Lab, che è il nostro spazio in via Paolo Fabbri in Cirenaica, e da condominio a Milano. Quindi quest'anno abbiamo addirittura così attraversato l'Italia, siamo andati in un'altra regione, perché è una mostra in collaborazione con Portofino Dredging, che è uno sponsor con cui curiamo una residenza, e quindi ci hanno proposto di farla a Milano, ed è una maniera anche appunto per raccontare in altre città che a Bologna c'è questo festival. Bene, quindi quest'anno si esce anche dai confini bolognesi, si arriva fino a Milano, ottimo. Le date quindi quali saranno? Inauguriamo venerdì 22 settembre e restiamo aperti per 2 weekend, quindi 22, 23, 24 settembre primo weekend, 29, 30 settembre e 1 ottobre secondo weekend. Ovviamente le installazioni saranno fruibili anche durante la settimana, e anzi alcune, come la mostra all'Archiginnasio o le affissioni sulle bacheche di chip, sono già visitabili da oggi. Già visibili. L'ultima cosa che ti chiedo al volo, che mi ricordo dalle scorse edizioni, una cosa molto interessante è la presentazione del portafoglio per, insomma, giovani fotografi o fotografe. Ci sarà anche quest'anno? Sì, ci sarà anche quest'anno. Quest'anno abbiamo deciso di farla online, in maniera da poter coinvolgere anche professionisti che lavorano negli Stati Uniti, che lavorano in Giappone. Quindi si può andare sul sito, e si terranno giovedì 28 settembre. E invece in persona quest'anno ci sono 4 workshop che sono più dei seminari, durano una giornata dalle 10 alle 14, con artisti del calibro di Penelope Umbrico, che è un artista che è esposta al MoMA, quindi un'occasione secondo me imperdibile di conoscere questi professionisti e di lavorare con loro sulle proprie idee, anche perché saranno, diciamo, più concettuali che pratici, non sarà necessario portare la macchina fotografica, quindi sono veramente aperti a tutti. Grazie mille. Prego, grazie a voi. Aspetti già in esposizione, ufficiale apertura è domani, per questo, per la rassegna inserita in mostra nel Last Minute. Per quanto riguarda la rubrica del giovedì, sì, vi parlavo appunto di questa possibilità, come altre, di fruire a ingresso libero I Don't Know How to Respond to That al cortile della Biblioteca dell'Archiginnasio, Piazza Galvani 1 a Bologna. Sarà appunto fino al 2 ottobre. Grazie Rachele, grazie a Giuseppe Oliverio per questo dialogo di presentazione della terza edizione del PH Museum Days 2023, fino al 1 ottobre appunto. Tra poco conosceremo un'esposizione che già dal titolo American Beauty, ricordate il film? Mi pare Kevin Spacey tra i protagonisti, non è nulla. Beh, diciamo che non è esattamente così poi estranea questa pellicola, eh? Non dico che vi siano dei riferimenti, ma dei punti di riflessione sì. Beh, andremo in mostra parlando dell'esposizione a Padova American Beauty, cultura, stelle e strisce in diverse accezioni. La colonna sonora ovviamente sarà a tema, la conversazione con il curatore della mostra accompagnerà la rubrica del giovedì, e tra pochissimo si ritorna in diretta sui 103.1 per il Breakfast Club del giovedì.